Grazie, grazie. Grazie ancora, siete bellissimi, grazie. Se ci rimettiamo tutti a posto, credo è meglio, è stato tutto giusto finora. Ora vorremmo proporvi un brano che non abbiamo quasi mai eseguito dal vivo. E questo brano che fa parte del nostro LP Danzi è un pezzo molto importante nel contesto dell'album e anche solo, cioè nel suo contesto, perché è veramente attraverso questo sforzo così di questo animale che cerca di mettersi in piedi, c'è un po' la ricerca della propria dignità, la ricerca della propria realizzazione, del voler vedere. Questo brano si chiama La conquista della posizione eretta. peli di giunco e rughe d'antiche pietre, odore di bestia ormai di preda, nient'altro vede il mio sguardo prono se curva e la mia schiena. Potessi rizzare il collo oltre le fronde e tenere dritto il corpo opposto al vento. Io provo, cado e provo e ritorno per un momento. Mie foveste, mie